564. Gâteau alla noisette. A questo dolce diamogli un titolo pomposo alla francese che non sarà del tutto demeritato. Farina di riso grammi 125, zucchero grammi 170, burro grammi 100, mandorle dolci grammi 50, nocciuole sgusciate grammi 50, uova numero 4, odore di vaniglia. Le nocciuole avellane, sbucciatele con l'acqua calda, come le mandorle, e le une e le altre asciugatele bene al sole o al fuoco. Poi, dopo averle pestate finissime, con 2 cucchiaiate del detto zucchero, mescolateli alla farina di riso. Lavorate bene le uova col resto dello zucchero, indi versateci dentro la detta miscela e dimenate molto con la frusta il composto. Infine aggiungete il burro liquefatto e tornate a lavorarlo. Ponetelo in uno stampo liscio di forma rotonda e alquanto stretta, onde venga alto 4 o 5 dita, e cuocetelo in forno a moderato calore. Servitelo freddo. Questa dose potrà bastare per 6 o 7 persone.